Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salvadanaio, un Salvadanaio che ha un formato un po' speciale. Oggi, prima di tutto, vi preannuncio che potremmo subire, lo faremo molto volentieri, un blitz da parte della redazione del GR, da Simone Spezia, che saluto perché è qui accanto a me. Simone, buongiorno di nuovo. Sì, di nuovo buongiorno Deborah. Perché stiamo attendendo appunto che Mario Monti esca dalle sale del Quirinale per comunicare all'Italia come sarà composto il nuovo esecutivo Monti, giusto? Sì, esattamente questo. A quanto pare saranno solamente tecnici. Bisogna dire la verità che ci aspettavamo dei tempi molto più brevi, tutti quanti, nel senso che ci si aspettava che appunto il professore entrasse a Napolitano e uscisse dopo poco con la lista, mentre invece ormai l'incontro va avanti da oltre un'ora. Vedremo che cosa ne uscirà, quindi a maggior ragione particolarmente interessante. Certo, noi manterremo ovviamente questo filo diretto anche con il Quirinale, con Simone Spezia, naturalmente per darvi conto immediatamente, non appena Monti uscirà e avrà pronta la lista di quello che sta accadendo, di come sarà formato appunto il nuovo governo. Detto questo, però, abbiamo anche la nostra puntata tradizionale di Salvadanaio, che per la verità aveva oggi già di per sé una conformazione particolare. Per quale motivo? Perché oggi abbiamo convocato una delegazione di ASCOSIM, che è l'associazione delle SIM di consulenza indipendente, per mettere a disposizione appunto queste professionalità dei nostri ascoltatori, che possono chiamare sia nel corso di Salvadanaio, a meno che non venga chiaramente dirottata la diretta sugli eventi di Roma, per chiedere a queste persone come poter gestire al meglio questa fase per i risparmi estremamente delicata. Come sapete, di cose ne succedono tante, la borsa continua ad andare sull'otto volante, anche oggi è una giornata piuttosto strana perché Milano era partita male, ha recuperato tutto, stava guadagnando 2,5 punti, adesso segna di nuovo una battuta d'arresto per 0,5 punto percentuale, riporta con sé tutte le altre piazze europee, ma soprattutto c'è grande tensione perché, come sapete, il grande osservato speciale da ormai 3 mesi, soprattutto dalla scorsa estate, è il rendimento dei titoli di Stato italiani, con lo spread che di nuovo su livelli ancora preoccupanti questa mattina, dopo essere ridisceso questo differenziale del rendimento fra il titolo di Stato italiano, il decennale, quello tedesco, sotto i 500 punti base, ieri ha ritoccato i 530, adesso è di nuovo sopra questo livello. E insomma, allora, per orientarci un po', per anche gestire con serenità il nostro risparmio in uno scenario che invece qualche giorno ci spaventa, oggi appunto potete fare le vostre domande ai nostri esperti. Non solo a Salvadanaio, c'è la cosa importante che devo ricordarvi, che questo filo diretto proseguirà anche dalle 13 alle 15, non in diretta, ma mettendovi a disposizione un altro numero di telefono che potete chiamare per ricevere direttamente appunto le consulenze dei nostri ospiti. Io prima di tutto vi ricordo il numero che potete utilizzare appunto più tardi: 0246522444, e quindi dalle 13 alle 15 questo è il numero per le vostre domande, per il vostro filo diretto con gli esperti del risparmio. Chi sono questi esperti del risparmio? Perché qua stiamo facendo un gran parlare e sollevando una grande curiosità. Chi saranno questi maghi di questa mattina? E allora io ringrazio e saluto per essere con noi Zeno D'Acquarone, presidente di ASCOSIM, l'associazione appunto delle SIM di consulenza. Buongiorno. Buongiorno ai radioascoltatori. Il segretario generale Massimo Scolari, buongiorno. Buongiorno. L'altro componente appunto dell'associazione, Massimo Fortuzzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci sono tante cose da dire in una fase particolarmente delicata come quella attuale. Tanti risparmiatori, forse lo hanno fatto in moltissimi negli ultimi giorni, hanno la tentazione di mollare qualsiasi prodotto di risparmio e di investimento per ritornare, non dico tanto al materasso, ma comunque alla totale liquidità del proprio risparmio. Intanto vi chiedo, così, prima di cominciare a sentire anche quali sono le esigenze impellenti del popolo dei risparmiatori in una fase delicata come questa, vi chiedo un po' qual è la vostra sensazione rispetto al momento che stiamo vedendo. E anche questa mattina, per la verità, testimoniamo di nuovo questa forte relazione tra la politica e la finanza, Potrebbe anche essere che questa nuova ridiscesa delle FTSE MIB, questo nuovo risollevamento della testa dello spread stamattina, sia da attribuire a questo ritardo nella comunicazione della lista dei ministri. Zeno D'Acquarone, insomma, che ne pensa? Intanto sentiamo toni molto allarmistici da esponenti vari. Da parte nostra l'invito agli investitori e risparmiatori è: cerchiamo anche di mantenere la calma, perché prendere decisioni affrettate sull'onda dell'emotività forse è sbagliato, e quindi il nostro invito è: stiamo calmi. Dal punto di vista di quello che sta accadendo sui mercati, esiste un caso Italia, siamo in attesa di questo nuovo governo che varerà, speriamo, le riforme, ci vorrà del tempo, e quindi l'invito è: abbiamo pazienza, la volatilità dominerà ancora i mercati, e prepariamoci appunto a non soluzioni immediate, ci vorrà tempo, e poi esiste un caso Europa. E quindi a maggior ragione questo richiederà sforzi a livello comunitario, europeo, con tutte le difficoltà che esiste un caso Europa, come è stato dimostrato anche ieri dal fatto che, visto che stiamo sempre controllando questi differenziali di rendimento con i titoli decennali tedeschi, appunto si sono allargati anche gli spread con l'OAT francese, con i bonus spagnoli. Per la verità, con la Spagna già questo test era stato fatto, ma ieri, diciamo, la Francia ha cominciato ad avere con un po' più insistenza delle settimane passate questo riflettore puntato addosso. Massimo Scolari, allora, qual è la novità degli ultimi giorni? Sicuramente il problema dell'Italia si inquadra in un contesto europeo di difficoltà, questo è sotto gli occhi di tutti. Vorrei sempre anche ricordare che si guarda con molta attenzione lo spread dei rendimenti tra i titoli italiani o i titoli francesi o i titoli spagnoli e i titoli governativi tedeschi. È vero anche che lo spread è aumentato, sia perché sono aumentati i tassi di interesse su questi emittenti, ma è anche vero che sono diminuiti i rendimenti dei titoli tedeschi, quindi esatto. C'è una corsa alla sicurezza, alla qualità, che fa sì che lo spread aumenta, essendo una differenza, sia perché peggioriamo noi, ma anche perché per loro hanno avuto un beneficio ai titoli tedeschi. Quindi questo non bisogna mai dimenticare, che per quanto sia importantissimo guardare lo spread, bisogna anche guardare il livello assoluto dei tassi che ci riguardano. Noi siamo in Italia, ovviamente, e il vero dato preoccupante è quanto aumenta il rendimento dei titoli di Stato italiani per quanto riguarda il nostro paese. C'è stata questa domanda la faccio sempre un po' a tutti coloro che da qualche tempo a questa parte si dilettano con me a cercare di spiegare le dinamiche di questa crisi e anche le nuove attitudini che sta provocando in molti. C'è stata e molti ascoltatori, appunto, che sono intervenuti a Salvadanaio di recente sono rimasti molto colpiti dalla campagna che invita gli italiani ad acquistare debito pubblico per allentare la tensione finanziaria, la campagna del famoso imprenditore toscano Giuliano Melani, che si è comprato l'intera pagina del Corriere per diffondere il messaggio. Noi abbiamo avuto settimana scorsa anche molti ascoltatori abbastanza pressanti nei nostri confronti, che ci hanno chiesto esplicitamente di aderire a questa campagna. Perché voi giornalisti finanziari non lo fate? Massimo Fortuzzi, lei è stato affascinato da questa campagna, oppure magari per un piccolo risparmiatore su questi rendimenti è bene che un po' di precauzione la adotti? No, la campagna è benevola da un punto di vista nazionale, ma rischia di essere illusoria se non si fanno i conti proprio sul quotidiano che appartiene alla stessa radio a cui partecipiamo oggi. È uscito la settimana scorsa un articolo dove venivano quantificate le capacità degli italiani di partecipare alle aste future. In altre parole, è difficile immaginare che soltanto la popolazione nazionale possa assolvere alle esigenze di rifinanziamento del debito pubblico italiano, che verrà a scadenza nel corso del 2012, quindi più di 200 miliardi di euro. La soluzione vera è una soluzione più estesa, politica, e cioè la capacità di chi ci governa sia a livello nazionale sia di chi fa parte dei 17 paesi dell'area EMU di proporre delle soluzioni innovative e politiche. Questa è la vera soluzione. Poi ben venga che gli italiani acquistino maggiore consapevolezza di sé e dei propri interessi nazionali anche attraverso la sottoscrizione del nostro debito pubblico. Intanto, in attesa di capire che cosa accadrà a Roma nelle prossime ore, che cosa accadrà a Bruxelles magari nelle prossime settimane, c'è chi deve gestire il contingente e capire cosa fare del proprio risparmio. Zeno D'Acquarone, come si gestisce l'emotività in fasi come questa? Ci sono, lo dicevo prima, molti ascoltatori, molti risparmiatori che hanno la tentazione di liquidare tutto, e molti ci hanno scritto nelle ultime giornate chiedendoci un suggerimento su questo tipo di iniziativa: smobilitare tutto il proprio risparmio e magari togliersi completamente il mutuo, togliersi questo pensiero. Secondo lei è una buona idea? Allora, punto primo, in questo momento prevalgono, troviamo tre tipologie di atteggiamenti da parte degli investitori. C'è chi non è rassegnato, semplicemente ha preso coscienza della situazione e attende, quindi si è investito, mantiene le posizioni. Poi ci sono le persone che sono allettate da rendimenti molto interessanti e quindi sono tentate, e questo dipende poi ognuno dalla propria situazione, a investire. Faccio sempre riferimento ai titoli di Stato italiani, e ci sono persone che invece hanno paura e quindi sarebbero tentate invece di liquidare le posizioni o diminuire le posizioni. Quindi questi sono gli stati d'animo con cui noi consulenti, con noi professionisti dobbiamo confrontarci. Sull'altro aspetto, quello di utilizzare le risorse finanziarie per estinguere un mutuo o un finanziamento, sinceramente sono decisioni così delicate che bisogna approfondire quali che sono le motivazioni per cui una persona si porta a ho paura di rimanere col cerino in mano e quindi già che ci sono mi cavo il debito di torno. Se questa è la sensazione, andiamoci piano, perché mi sembra un po' allarmistico. Certo, dipende, come dire, qual è il presupposto di una scelta di questo tipo. Prendere dalla crisi che stiamo vivendo da qualche settimana, se potessi me lo leverei comunque il mutuo, perché proprio quel gruppone là non lo sopporto, però queste sono scelte proprio individuali. C'è chi col debito convive molto bene, chi non ci convive. Se i nostri imprenditori ci convivono storicamente molto bene, visto che le nostre aziende sono molto indebitate. Vabbè, adesso sempre un po' meno, perché le banche sono molto meno generose, per cui in realtà avrebbero bisogno in realtà di risorse fresche, anche del supporto bancario, che in questo momento non è possibile. Massimo Scolari invece, qual è la sua ricetta per gestire l'emotività in fasi molto complesse come quelle attuali, che probabilmente non termineranno neanche domani, neanche con il nuovo esecutivo, perché non è che i problemi sono finiti? No, infatti bisogna veramente avere molta pazienza e non farsi prendere dalle circostanze, insomma dai titoli sui giornali, dalle indicazioni più o meno catastrofiste o eccessivamente ottimiste. Io penso che bisogna sempre guardare al proprio profilo di rischio, al proprio orizzonte temporale degli investimenti, capire bene quali sono i propri obiettivi, in modo tale che si possa pensare alle proprie scelte di investimento o anche di indebitamento sempre con una logica, diciamo, guardando ai propri obiettivi e naturalmente, laddove necessario, facendosi anche supportare e consigliare da persone che possono dare delle indicazioni di tipo tecnico, perché il mercato effettivamente diventa sempre più difficile e quindi è bene, diciamo, essere anche aiutati da un supporto professionale. Però credo che bisogna sempre farlo, non solo nei momenti di instabilità, ma anche nei momenti positivi. Ecco. E infatti. Allora, Simone Spezia, intanto, se vuoi riguadagnare il microfono, così supportami. C'è tanto movimento, ma in realtà non c'è il movimento decisivo ancora. Non c'è il movimento decisivo. Per il momento si vedono solamente colleghi tra i quali i nostri, naturalmente, Vincenzo Miglietta e Elisabetta Fiorito, che sono là. Si attende l'uscita di Monti, ormai è un'ora e mezza che va avanti l'incontro tra il Presidente del Consiglio incaricato e il Presidente della Repubblica, forse qualche nodo politico ancora da sciogliere. Infatti, allora, prima di cominciare intanto a sentire anche i nostri ascoltatori, è già pronta Maria Luisa dalla provincia di Milano. Vorrei, per essere così in un atteggiamento di par condicio con tutti i miei interlocutori di questa mattina, sentire anche la ricetta di Massimo Fortuzzi su come gestire l'emotività e, oltre al che cosa bisogna fare con il proprio risparmio, che cosa non bisogna fare in momenti come questo. La ricetta, dal mio punto di vista, e mi associo a quella dei miei colleghi, è una informazione costante, che però richiede disciplina, cioè bisogna studiare. Se si vuole investire le proprie risorse con risultati e si vuole contenere l'emotività, è necessario conoscere l'arena in cui si entra in questo caso l'arena finanziaria, che non è affatto facile. Quindi non voglio minimizzare, è necessario impegnarsi per comprendere i fenomeni di cui stiamo parlando. Quindi se i soggetti, i nostri radioascoltatori, vogliono investire da soli, ebbene sappiano che devono impegnarsi seriamente per conoscere i temi, gli strumenti, le circostanze, la congiuntura e quindi agire in maniera individuale. Altrimenti ci si può affidare a dei consulenti che sono per loro natura anche nella loro condizione per contenere l'emotività della propria clientela, spiegando loro cosa sta succedendo e, consentitemi il termine, lentamente educandoli a effettuare gli investimenti di cui stiamo parlando. Cosa non fare? Cosa non fare è lasciarsi prendere dalle iniziative estemporanee, cioè inseguire delle notizie che sono per loro natura quasi sempre di breve periodo e quindi correre a vendere e poi a ricomprare e poi a rivendere e poi a ricomprare. Ci vuole quella che noi chiamiamo una visione, cioè un'interpretazione dei mercati, per l'appunto, e bisogna poi attenersi a questa visione in maniera rigorosa. Eccoci ritrovati a Salvadanaio in diretta, Salvadanaio che oggi ha un formato speciale per una doppia ragione, intanto perché ha organizzato questa joint venture con Ascosim, l'associazione delle sim di consulenza indipendente, ha messo a disposizione tre esperti, tre rappresentanti di questa organizzazione dei nostri ascoltatori e stiamo adesso, cominceremo a farlo, a rispondere alle vostre domande fino alla fine di Salvadanaio, poi continueremo questo filo diretto in privato. Gli ascoltatori di Radio 24 potranno chiamare allo 0246 522444 e potranno interagire direttamente con Zeno D'Acquarone, Massimo Scolari e Massimo Fortuzzi, e rappresentare loro, le loro esigenze di risparmio in questo momento e soprattutto raccontare un po' come pensano di gestire in questo momento il delicato momento che sta vivendo anche il nostro paese e di conseguenza anche il risparmio di tutti noi. Allora, un altro motivo per cui la puntata è speciale è perché attendiamo, sono qui in compagnia di Simone Spezia, che il presidente del Consiglio designato Mario Monti esca dal suo colloquio con il presidente della Repubblica Napolitano per indicare la lista dei ministri che formeranno questo nuovo esecutivo, Simone, prevalentemente tecnico, no? Almeno sì, da a quanto pare queste sono le indicazioni che stanno arrivando. Come gli ascoltatori sanno, era in discussione la partecipazione all'esecutivo di Gianni Letta e Giuliano Amato. Questa notte c'è stato un altro incontro lunghissimo di Monti con Alfano, il segretario del PDL, durato circa 3 ore, finito alle 2 di notte. A quanto pare Amato e Letta non ci saranno, sarà un esecutivo esclusivamente tecnico, però insomma vedremo. La lista più complicata da comporre che si sia mai vista, l'ho sempre detto che è sempre meglio fare quella della spesa. Detto questo, insomma, cerchiamo un po' di alleggerire questo clima di attesa e cominciamo a sentire le domande dei nostri ascoltatori. Allora, queste, almeno fino al termine di Salvadanaio, possono essere rivolte ai nostri microfoni chiamando il tradizionalista 800 24 00 24. Maria Luisa dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, sarò breve. La mia domanda è sui buoni postali. Si parla tanto di BOT, BTP eccetera eccetera, però non si parla di buoni postali. Io tengo dei buoni postali, vorrei sapere in caso di default che è un trattamento con dei BOT è diverso per il buono postale, oppure che cosa può succedere ai buoni postali? Allora, Maria Luisa, la ringrazio. Sì, adesso un attimo, sa com'è, stiamo vivendo anche degli istanti un po' concitati in studio perché il nostro studio oggi, proprio in attesa dell'uscita di Monti, è particolarmente affollato perché vorremmo organizzare anche possibilmente questo speciale. Allora, chi alza la mano per rispondere all'ascoltatrice sui buoni appunto postali, prodotti di risparmio diffusissimi, perché sì, le poste ovviamente hanno sempre cavalcato la loro potenza di fuoco della grandissima capillarizzazione sul territorio. I buoni fruttiferi ce ne sono tra l'altro di tanti tipi, sono degli strumenti anche molto semplici, però come dire, le poste sono un soggetto dello Stato, quindi il timore è quello da parte degli ascoltatori e sottoscrittori di questi prodotti. Massimo Scolari. Ma dunque, in generale bisognerebbe appunto togliere di mezzo qualunque genere di preoccupazione circa il tra virgolette fallimento dello Stato e quindi anche di Poste Italiane eccetera. Siamo certamente in una situazione situazione difficile e complessa, però credo che i ragionamenti e le preoccupazioni circa la capacità di tenuta del nostro Stato sono fuori discussione da parte anche dei critici più severi. Quindi darei un messaggio rassicurante nei confronti di qualunque genere di investimento che certamente può essere soggetto a tutta la volatilità di mercato, e quindi c'è sicuramente un rischio nell'affrontare investimenti di questo genere, come in tutte le cose, ma però non evocherei, diciamo, scenari apocalittici. Io per quanto riguarda le forme tecniche degli investimenti, cioè i buoni postali piuttosto che le polizze, piuttosto che i conti deposito delle banche, eccetera, raccomando sempre il risparmiatore di chiarire bene con chi gli propone questo investimento la durata temporale, i costi connessi a questo investimento, per fare in modo appunto che sia assolutamente trasparente il trattamento e i risultati dell'investimento. E la cosa più importante è proprio nella misura in cui il risparmiatore volesse liquidare questo investimento prima della scadenza, quali sono le condizioni previste da chiedermi. Ecco, questa è una cosa assolutamente importante sia per i buoni postali sia per le obbligazioni delle banche, le polizze vita. Guardare sempre che cosa posso avere se decido di liquidare l'investimento. Questo bisogna chiarirlo bene fin dall'inizio. E infatti, tra l'altro, sempre appunto mantenendo il nostro focus sui titoli del Tesoro italiani, c'è Gina da Cagliari che ci scrive: posseggo BTP decennali, non ho attualmente bisogno di liquidità, ma prima che continui a deprezzarsi ancora, mi conviene vendere. Zeno da Acquarone. Peraltro in questi giorni si è verificato anche l'altro fenomeno che abbiamo spiegato più volte, la cosiddetta inversione della curva del rischio, cioè i titoli a brevissima scadenza hanno addirittura avuto, insomma, sul mercato delle remunerazioni più alte, comunque pari al titolo decennale. E perché assumersi un rischio per 10 anni quando a 2 anni... forse mi conviene di più in questo momento? Intanto alla radioascoltatrice il suggerimento che possiamo dare noi in questa sede, non conoscendo la specifica situazione, vige sempre la regola della diversificazione, quindi da parte nostra bisognerebbe, il consiglio è quello di non trovarsi mai in una situazione di essere investiti in un unico strumento finanziario, a prescindere da quello che sia che sia considerato uno strumento estremamente sicuro, quello che in gergo tecnico e anglosassone viene chiamato il cosiddetto fly to quality, e quindi il nostro consiglio è: benvengono i titoli di Stato, ma non ovviamente quando significa essere investiti completamente in un unico strumento. Le uova nello stesso paniere non si mettono. Esattamente. Allora, chi sentiamo adesso? Andiamo a Nicola da Milano, buongiorno. Che già vedo ci vuole mettere in difficoltà con la prima parte della domanda, adesso magari su quella niente, Nicola è caduto, per cui se riusciamo lo recuperiamo. Giulia da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, volevo chiedere un'informazione. Sì. Io nel 2006 ero stata consigliata da Banca Intesa di investire in polizze vita. Praticamente erano 85.000 euro suddivisi in Intesa Forza 5 Maggio, Intesa Genna, Intesa 4 Ottobre 20. Sì, praticamente una era Mediobanca, l'altra la Santander e un Credito Agricole. Adesso io ho una perdita di 10.000 euro e sono stata chiamata, mi ha detto se mi voglio disfare di questi, investire in altri tipo BOT, perché mi hanno detto che la Santander, essendo Spagna, è molto, cioè c'è pericolo. Io volevo un consiglio da voi, perché perdendo 10.000 euro mi sembrano un po' tanti. Allora Giulia, qua dobbiamo fare un po' di ABC in termini generali. Allora intanto, come dire, queste sono le nuove polizze vita che hanno proliferato sul mercato negli ultimi anni, hanno il contenuto finanziario, quindi chi immagina di comprarsi un prodotto di investimento che salvaguardi al massimo il proprio denaro, se scopre poi, come è stato per Lehman Brothers, che questi prodotti avevano un contenuto finanziario, in realtà sanno che la performance di questi prodotti è legata ad altro e non alla società che investe, in questo caso alla banca. Massimo Fortuzzi, allora che cosa dobbiamo spiegare alla nostra ascoltatrice? Intanto che non si faccia prendere dall'emotività, che si è aspettato fino a questo momento un altro paio di giorni se li può prendere, che tutte le banche spagnole hanno dei grossi problemi, che non è solamente Santander. Però la banca gli ha detto: magari fatti un portafoglietto un po' più tranquillo. Potrebbe anche essere una cattiva idea, però glielo dice adesso che è in perdita. Chiarisco che in quanto appartenenti alla comunità dei consulenti noi non possiamo entrare nel dettaglio di singoli strumenti finanziari nel corso della trasmissione. Bisognerebbe fare una bella chiacchierata lunga con l'ascoltatrice e leggere bene intanto i prospetti informativi anche delle soprattutto singole... bisognerebbe avere dei contratti in questo caso, perché sennò contravverremo alla normativa italiana. Però quello che possiamo dire alla nostra gentile ascoltatrice è, riallacciandoci a una conversazione precedente, di non farsi prendere dall'emotività. Come lei, dottoressa, ha appena argomentato, non ci sono dei rischi strutturali nel sistema bancario europeo, sia che si tratti di banche spagnole o finlandesi o tedesche. Ci sono rischi distribuiti, quindi concentrarsi su una singola società e dipingere un quadro negativo è probabilmente fuori luogo, e non vorrei che diventasse invece un'opportunità commerciale per consigliare ad alcuni clienti di muovere un po' il portafoglio e così agevolare ancora i conti economici degli istituti. Cosa che non sarebbe neanche scandalosa, le banche hanno bisogno di far raccolta, cercano di piazzare le proprie obbligazioni o i propri conti di depositi in questo momento, però è importante che sia un'operazione fatta nella massima trasparenza e nell'esigenza del cliente, però proprio così. Chi ce lo dice? Questi, se la banca fa questi due concetti che lei ha appena sottolineato, cioè trasparenza e rispetto dell'interesse del cliente, che sono poi dei concetti che costituiscono la spina dorsale di questa associazione e di chi ne fa parte, devono essere sempre rispettati dal nostro punto di vista. Quindi alla radioascoltatrice io direi di pensarci molto bene, di chiedere ulteriori spiegazioni, di non soffermarsi affatto di fronte alle prime generiche spiegazioni che l'istituto a cui lei si appoggia le ha fornito, e di fare i conti, di non lasciarsi prendere dall'emotività. Non sta crollando il mondo, ci devono essere degli ottimi motivi per uscire da quell'investimento, e perché no, discuta con l'istituto che gliel'ha proposto anche di prendersi una parte delle perdite, visto che... Ah, però questa è veramente una, come dire, posizione originale che noi, questa, su questa sì che noi come dire, ragioniamo volentieri, più che sulla campagna di orgoglio nazionale, ma su questa invece che le banche si incarichino anche parte delle perdite che, come dire, suggerendo prodotti di investimento non idonei ai propri clienti, appunto fanno sopportare solo a loro e non se ne incaricano. Però vabbè, se c'è scritto esplicitamente magari nel prospetto informativo dei prodotti, poi la banca può sempre dire vabbè, lì c'era scritto e io te l'avevo detto. Però si è creato un grande dibattito in studio sul caso dell'ascoltatrice che ci ha chiamato poco fa, che naturalmente meritava un ulteriore approfondimento, ma soprattutto facendo ovviamente una chiacchierata a quattro occhi con questa persona per capire bene la composizione di questo suo giardinetto investito, perché alla fine adesso non possiamo recuperarla, ma poi magari la richiamiamo privatamente. Non abbiamo capito se avesse una sola polizza vita indicizzata a tre istituzioni finanziarie internazionali o tre polizze diverse, ognuna agganciata per la formazione del proprio rendimento a istituzioni finanziarie diverse. Detto questo, però, il ragionamento unico che si può fare è che Zeno d'Acquarone, molti risparmiatori, oltre al fatto che magari concentrano il proprio risparmio in un unico prodotto di investimento, come dicevamo prima, molto spesso dialogano con un unico intermediario, con un unico interlocutore anche finanziario. Molto spesso la banca, lo sportello sotto casa, è l'unico intermediario, ma d'altronde magari per redditi modesti, per persone che hanno poco risparmio, come fanno a permettersi di interagire con più intermediari? Dobbiamo considerare anche questo aspetto molto realisticamente. Assolutamente. Allora, il fenomeno che riscontriamo appunto più spesso, come lei ha detto, è la concentrazione dei portafogli su un singolo o pochi strumenti finanziari, che è il primo errore, la prima regola base da evitare, è quella della diversificazione. E poi sì, c'è questo tema che effettivamente permettersi un advisor può non essere alla portata di tutti, e dipende a che strutture ci si rivolge. Però sinceramente oggi il tema della consulenza è un tema di cui si parla sempre di più. Sia gli intermediari, tutte le categorie di intermediari si stanno attrezzando per dare questo tipo di servizio. Certo, i modelli di business sono diversi, ma esiste anche una pluralità di attori indipendenti sotto varie forme, sia che siano SIM di consulenza o advisor persone fisiche, che penso siano accessibili ormai quasi a tutti. Massimo Scolari, è così? Ma sì, volevo aggiungere, perché molto fino a qualche tempo fa, io glielo dico perché gli ascoltatori me lo raccontavano in diretta, quando parlavamo appunto della necessità di rivolgersi a consulenti indipendenti, molti risparmiatori hanno la percezione che questo sia un mondo ovviamente appannaggio solo di portafogli particolarmente dignitosi. Beh, non è vero, naturalmente la consulenza può essere fatta su qualunque genere di portafoglio, naturalmente. Quello che io volevo aggiungere rispetto al tema delle polizze in generale, della scelta degli strumenti, la nostra raccomandazione è quella di privilegiare assolutamente la semplicità dei prodotti. Cioè va benissimo dialogare anche con un solo intermediario, perché uno può avere magari solo una banca, però richiedere l'assoluta semplicità e comprensibilità dei prodotti, non evitare diciamo di investire in qualcosa che non si comprende bene, e la gentile ascoltatrice prima che ci raccontava delle polizze vita dava l'impressione di non avere compreso bene il contenuto, almeno forse non l'ha compreso, noi non l'abbiamo compreso. Sta di fatto che mettersi ad investire in qualcosa che è derivato, strutturato eccetera, per chi non è del mestiere, è qualcosa di assolutamente da evitare. Ecco, perché ci sono dei rischi che non si capiscono, ci sono dei costi eccessivi, molto meglio investire in strumenti semplici che si comprendano e che naturalmente siano connaturati al profilo di rischio. Qual è il più semplice che possiamo trovare in banca? Oltre al conto di deposito, adesso è l'obbligazione bancaria, perché ne vedo. L'obbligazione bancaria, poi ci sono strumenti come i fondi di investimento, che se non hanno componenti strutturati o derivati sono naturalmente sia diciamo fondi di investimento attivi che ETF che sono quotati in borsa, che soprattutto anche se sono pure quelli adesso hanno un grado di sofisticazione incomprensibile per me, perché sono indicizzati a qualunque cosa appaia sul mercato finanziario. Esattamente, bisogna evitare l'esoticità, andare a cercare strumenti che apparentemente possano dare dei risultati straordinari o essere collegati a mercati particolarmente esotici, puntare al sodo, ecco, a cose semplici che si comprendano, che siano remunerative in modo normale, mai cercare gli extra rendimenti, le favole e tutte queste cose, perché poi si trasformano spesso in boomerang per i risparmiatori. Intanto vedo molti ascoltatori che vorrebbero ancora intervenire così commentando un po' il tema del BTP, lo spread che tra l'altro sta risalendo, siamo di nuovo a 530 punti base, ecco qua Simone che me lo piazza davanti agli occhi così per agitare ulteriormente la giornata. Il mercato è nervoso comunque per questo ritardo di Monti, secondo me, io adesso non vorrei fare l'uccello del malaugurio, però non piace questa incertezza, al mercato piacciono le circostanze certe, lo abbiamo capito più volte. Voleva aggiungere qualcos'altro Zeno D'Acquarone rispetto alle considerazioni fatte da Scolari fino a poco fa? Sì, no, io volevo rafforzare quello che stiamo dicendo qui assieme tutti oggi. Fondamentale avere consapevolezza ogni volta che si fa una scelta di investimento, perché con la consapevolezza si è anche pronti a tollerare delle minusvalenze, perché nel momento in cui noi investiamo in strumenti finanziari non esiste, e gli eventi che stanno ormai che ci stanno coinvolgendo da anni, ormai dal 2008 in poi, ci stanno insegnando che porti sicuri non ce ne sono più. E quindi con questo il free risk è un concetto che non c'è più, ma non c'è oro, non c'è metalli preziosi, non c'è niente, tutto implica ha un rischio implicito dentro. Quindi quando si approcciano degli investimenti, innanzitutto non esiste, non abbiamo la spada di Damocle puntata addosso che ci per forza di cose dobbiamo raggiungere rendimenti sempre più alti. Poniamoci un obiettivo di conservare il patrimonio, stiamo attenti, perché poi il dramma è quando ci si ritrova dopo anni e dirà: ah, i miei risparmi bruciati. Quindi prendiamo decisioni consapevoli. Secondo punto, come diceva prima il collega Fortuzzi, questo è un mercato difficilissimo, è complessissimo e in più c'è una proliferazione di strumenti che sta veramente, è difficile anche per noi, è difficilissimo, impossibile avere competenze su tutto all'interno di certe, anche di un'unica struttura. combinando questi effetti, poi i risultati vediamo, e vediamo perché poi la gente si lamenta. Quindi ecco, ci tenevo a portare questo messaggio. Allora, io tra l'altro ho un minuto e mezzo di tempo scarso. Massimo da Bari vorrebbe chiederci informazioni sul mutuo che dovrà fare tra un anno. Massimo, io ho un sacco di Massimi qui in redazione, vediamo se qualcuno si vuole esercitare anche nel darle le due dritte senza farlo intervenire, perché non ho tempo di base per poter fare un mutuo in maniera serena. Allora, intanto i tassi stanno risalendo, i fissi stanno cominciando ad essere non tanto perché i tassi di mercato sono alti, quanto perché gli spread applicati dalle banche sono poco generosi. Massimo Fortuzzi, una dritta buona per fare un mutuo con consapevolezza, lei che farebbe adesso? Prima cosa, confronterei molte offerte. Ci sono dei siti internet che ormai consentono di effettuare questi confronti, molte comparazioni, sì, in maniera facile. Visiterei anche agenzie multiple di vari intermediari per interloquire direttamente con degli agenti commerciali ed entrare nel dettaglio. E poi la scommessa più forte, visto che il mutuo si farà fra un anno, riguarda la differenza tra variabile e fisso. Questo spread di 500-530 punti base che adesso spinge sui costi, magari fra un anno sarà 200, quindi aspettare un po', ma soprattutto comunque prima scegliere la buona banca e il buon mutuo prima di scegliere la casa, perché poi la scelta viene fatta in maniera troppo condizionata emotivamente. Allora, io continuo questa chiacchierata in privato con Zeno D'Acquarone, Massimo Scolari e Massimo Fortuzzi, e voi chiamateci allo 02 46 52 2444. Lascio la linea al GR. Buona giornata a tutti.